notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tsipras al Parlamento Europeo, i soldi sono andati alle banche, non al popolo. I popolari all'attacco, hai distrutto la fiducia nell'Europa. Kohle Mitterrand, dei mostri, dice Farage. Crollano ancora le borse cinesi che perdono il 6%, 500 titoli sospesi dalle contrattazioni, mentre il rischio di esplosione di una bolla si fa sempre più evidente. Un nuovo caso a Milano, beccate a rubare in metropolitana, decine di denunce a carico, ma è quasi impossibile metterle in carcere, hanno troppi figli e le pene sono troppo basse. La Tunisia vuole costruire un muro di 160 chilometri contro gli jihadisti. Il presidente dell'INPS, Boeri, lancia la sua proposta, più flessibilità in uscita per i pensionati con il contributivo, la Camusso attacca, la proposta è sbagliata. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura ancora inevitabilmente le vicende greche con l'intervento del premier Alexis Tsipras al Parlamento Europeo, un intervento nel quale ha toccato tutti i temi sul piatto, dalla discussione sul debito alla disoccupazione, passando per l'accesso al fondo salva stati, ma ricevendo delle risposte molto dure dai principali gruppi parlamentari. Sentiamo. Applausi e cartelloni con la scritta OK in greco per ricordare la vittoria del no al referendum, ma anche parole dure e toni sprezzanti. Così è stato accolto a Strasburgo Alexis Tsipras, che dopo l'ultimatum dell'Europa si presenta al Parlamento europeo. Subito il presidente del Consiglio Tusk gli ricorda che Atene ha solo 4 giorni per l'accordo. Non ho dubbi sul fatto che una possibile Grexit colpirà anche l'Europa, dice Tusk, quindi l'intervento del premier greco. Finora i soldi dati alla Grecia sono stati utilizzati per salvare le banche europee e greche. La mia patria è stata usata come una cavia dell'austerity. Ora vogliamo un accordo che ci porti fuori dalla crisi, dichiara Tsipras, pronto, così sembra, a mandare il nuovo piano che contiene proposte affidabili, spiega il leader ellenico. Primo obiettivo la lotta alla disoccupazione, ma anche un impegno immediato sulla sostenibilità del debito. Non si fa attendere l'affondo di Weber. Con il referendum lei ha distrutto la fiducia in Europa, dice a Tsipras. L'applaudono solo gli estremisti. Lo incalza ancora il leader del PPE e a prendere la parola sono proprio gli euroscettici. È stato coraggioso in dire il referendum, ora porta il suo popolo fuori dall'euro a testa alta. Le parole del leader dell'UKIP, Farage. Quello che sta distruggendo l'Europa è l'arroganza tedesca, non è la Grecia, spiega il numero uno di Podemos, Pablo Iglesias. Senza la Grecia nella zona euro, l'Europa non sarebbe più se stessa. Questa è la posizione dei socialisti tramite il loro capogruppo Gianni Pittella. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. Questo è il quadro, direi, piuttosto esaustivo da Strasburgo, e però adesso ci spostiamo ad Atene per sentire che aria tira Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, Vittorio, che succede ad Atene oggi? Dunque, oggi sono uscite le prime indiscrezioni sul piano che i greci stanno proponendo ai creditori. Il Wall Street Journal ha rivelato che ci sono già delle proposte concrete per riduzione sulle pensioni e riforme strutturali. In cambio però i greci vorrebbero un piano di 3 anni, quindi una soluzione con l'indicazione, almeno nel comunicato finale, del problema della risoluzione del debito pubblico, del debito, quindi una ristrutturazione che possa rendere questo debito gestibile o, come dice il Fondo Monetario, appunto comprensibile nel lungo periodo. Tutto questo naturalmente in una situazione dove Tsipras è molto forte dal punto di vista interno, è praticamente onnipotente perché ha chiamato a raccolta anche le partiti di opposizione che si sono schierati con lui in una specie di governo di unità nazionale in nuce e pronto ad andare in Parlamento e già far approvare settimana prossima delle prime riforme per dare un segnale di estrema buona volontà. Tutto questo quindi, se l'ala sinistra del suo partito non dovesse dargli il via libera in Parlamento e quindi mettersi di traverso, potrebbe portare Tsipras addirittura a chiedere elezioni anticipate e a quel punto a cambiare proprio maggioranza di governo, cercando di mettere fuori gioco l'ala sinistra che per ora gli ha creato questi problemi. E da Atene a tutto, a voi studio. Grazie a Vittorio D'Arolda anche per questo aggiornamento sulla politica interna greca. Siamo ai mercati, mercati che non paiono particolarmente influenzati in queste ore dalla Grecia né da quello che sta succedendo in Cina, fatti che ci racconta la nostra Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Buongiorno, allora cominciamo dall'Europa. Questa mattina nuovo tentativo di avvio con un rimbalzo quantomeno tecnico dopo due giornate davvero da dimenticare. Nelle prime ore di contrattazione era piuttosto fiacco questo rimbalzo, negli ultimi minuti c'è stata una piccola accelerazione e vede Milano questa accelerazione appunto portarsi in testa ai listini appunto con i rialzi più consistenti, più 1,7% per il FTSE MIB in questo momento. Bene anche Parigi, in rialzo di un punto, un po' più indietro Francoforte, più 0,8%, Londra più 0,6%, Madrid più 0,7%, quindi quantomeno qualche ricopertura tecnica sui titoli e i listini che hanno perso di più negli ultimi giorni c'è. Infatti a Piazza Affari vediamo queste ricoperture su Banca Monte dei Paschi, più 4,78%, peraltro ci sono delle dichiarazioni degli ultimi minuti di Alessandro Profumo che ha ricordato come nei prossimi giorni dovrà andare a raccontare alla Banca Centrale Europea qual è la strada intrapresa dal gruppo per trovare un partner straniero. Abbiamo Telecom Italia in rialzo di 4 punti, come A2A risalgono anche i petroliferi che negli ultimi giorni hanno sofferto molto per il netto calo del prezzo del petrolio. Chi scende invece stamattina? Il lusso. Tozza adesso meno 2,22%, perdeva più di 2 punti Salvatore Ferragamo che adesso risale e perde lo 0,6%. Queste sono società che invece risentono del tracollo del mercato cinese pesantissimo nelle ultime settimane, sono società che hanno un business molto consistente in queste aree e di conseguenza il calo della borsa si fa sentire. Cosa è successo stamattina nei mercati asiatici? Shanghai ha lasciato sul campo un altro 7%, il quadro vede veramente una condizione di sell-off drammatico, come lo chiamano gli operatori. Dal 12 giugno sono stati bruciati almeno 3.000 miliardi di capitalizzazione, al punto che circa il 50% delle società quotate a Shanghai e a Shenzhen sono state sospese dalle negoziazioni, nessuna motivazione ufficiale per la scelta, alcune citano ristrutturazioni, altre private placement, in gergo sempre finanziario, ma in ogni caso è la società che controlla naturalmente l'andamento della borsa che decreta queste sospensioni. Sta scoppiando una vera e propria bolla a Pechino che sarà naturalmente necessario monitorare attentamente nelle prossime settimane. Grazie alla nostra Deborah Rosciani, e sul tema, su questo tema della Cina torneremo più avanti nel corso della trasmissione per cercare di approfondire, per cercare di capire effettivamente che cosa sta succedendo al di là del fenomeno che vediamo e che si riflette sui mercati. Per l'Italia, sempre in campo economico, c'è la relazione annuale dell'INPS nella quale il presidente Boeri torna a far balenare l'ipotesi di una prospettiva di riforma che consenta di andare in pensione prima, attendendosi però un'erogazione più bassa, e che però ipotesi che non piace ai sindacati. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così Simone, il sistema previdenziale italiano, per quanto ormai tra i più sostenibili del vecchio continente, è in sé i margini per ulteriori modifiche, in questo caso per venire incontro a chi volesse andare in pensione prima. La parola d'ordine è allora quella della flessibilità in uscita, le regole del sistema contributivo, ha spiegato il presidente dell'INPS Boeri, lo consentono. Certo, ha aggiunto Boeri, deve essere un meccanismo sostenibile, ovvero chi va in pensione prima deve spalmare il montante contributivo su più mesi rispetto a chi va in pensione più tardi, ma ascoltiamo il presidente dell'INPS. In qualche modo rendere l'uscita flessibile verso la pensione sostenibile nel corso del tempo significhi un ritorno o un passaggio, un'accelerazione necessariamente del passaggio al contributivo. L'equità attuariale può essere perseguita senza necessariamente dover replicare esattamente il sistema contributivo. Ci sono alcune chiaramente caratteristiche di quel sistema che possono essere prese senza dover trasformare il tutto, il trattamento, il regime in quel tipo di regime. Ci vuole certamente un'attenzione ai problemi delle generazioni future. Ipotesi questa della flessibilità con il sistema contributivo bocciata poco fa dalla leader della CGIL Camusso, che ha commentato è sbagliata ed inciderebbe sulle pensioni più povere. Agiremo con cautela, no a paure ingiustificate, ha replicato il ministro del welfare Poletti. Altro capitolo poi quello delle pensioni cosiddette d'oro. Boeri ha parlato dell'introduzione di un contributo di solidarietà per chi ha redditi pensionistici elevati in virtù di trattamenti molto più vantaggiosi di quelli di cui godranno i pensionati del domani. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. La politica che si mescola ai temi della giustizia ci porta ancora una volta a Roma, dove l'ipotesi che sembra emergere è di un commissariamento sostanziale, non della giunta ma quantomeno degli organi direttivi del comune. Non c'è lo scioglimento per mafia, ma resta il quadro di diffusa illegalità, con la prospettiva della rimozione di singoli dirigenti e il commissariamento dei municipi più infiltrati. Insomma, Mafia Capitale non travolge direttamente la Giunta Marino, ma il Campidoglio resta ugualmente e politicamente in bilico. È un intervento chirurgico quello che il prefetto Franco Gabrielli, in linea con il procuratore contrario allo scioglimento, proporrà al Viminale nelle prossime ore. Un intervento col bisturi per azzerare quei settori della macchina amministrativa rivelatisi più permeabili alle pressioni di Buzzi e Carminati, o quei centri come Ostia incapaci di assicurare trasparenza. Ma nessuna richiesta di rimozione del livello politico. Le quasi 4 ore di riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza approdano insomma alla soluzione che già l'assessore alla legalità Alfonso Sabella suggeriva a Radio 24. La parte più importante della corruzione stava nella burocrazia. La legge prevede che in questi casi il Ministro dell'Interno disponga, su proposta del prefetto, la sostituzione dei dirigenti e dei funzionari che hanno dato causa a quella situazione di condizionamento. Ma questo percorso tecnico si allontana l'unta dello scioglimento per mafia, non mette politicamente al riparo il Campidoglio, già in parte commissariato per il Giubileo e ora probabilmente esautorato i snodi nevralgici della macchina organizzativa, senza dimenticare l'effetto sulla Giunta Marino della relazione della commissione d'accesso, 1000 pagine con un pesante atto d'accusa su appalti opachi e illegalità diffuse. La spada di Damocle, insomma, pende ancora sulla lupa capitolina. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. È ripreso questa mattina l'esame della riforma della scuola. Con l'esame degli emendamenti iniziato in mattinata a Montecitorio, per la riforma della scuola si avvicina il via libera definitivo. Alla Camera i lavori oggi andranno avanti per l'intera giornata. Il voto finale, salvo sorprese, è atteso per domani. Scontato il no a tutti gli emendamenti da parte di governo e maggioranza, l'obiettivo è quello di varare il testo approvato a fine giugno dal Senato senza modifiche in tempi rapidi. Questo per consentire già dal prossimo anno l'immissione in ruolo di oltre 100.000 docenti precari prevista dalla riforma. In avvio di seduta non sono mancate le polemiche. SEL e Movimento 5 Stelle hanno protestato per la contrazione dei tempi dedicati agli interventi sugli emendamenti. Sulla cosiddetta buona scuola stamattina è tornata ad intervenire Stefania Giannini. Non facciamo riforme per placare le proteste, ma per dare al Paese un sistema educativo migliore, ha detto il ministro dell'Istruzione, commentando le proteste di docenti e sindacati che anche ieri si sono riuniti davanti a Montecitorio per dire no alla riforma. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo agli esteri, iniziando da, e anzi parlando essenzialmente di quello che succede in Tunisia e in Libia. Da una parte si progetta un muro per fermare gli jihadisti, dall'altra si rigetta il tentativo di accordo proposto dalle Nazioni Unite. Sarà lungo 168 chilometri e sarà ultimato in tempi record entro il 2015. Ad annunciare la costruzione di un muro e di un fossato anti-jihadisti lungo il confine con la Libia, il premier tunisino Habib Essid, nell'ambito del piano contro le infiltrazioni terroristiche. La Libia, ha aggiunto il premier, per la Tunisia è diventato il primo problema. Per questo, ha spiegato Essid, stiamo studiando anche di installare apparecchiature elettroniche, nonostante, ha sottolineato, la spesa. L'annuncio del primo ministro tunisino nel giorno in cui il Parlamento di Tripoli ha bocciato il piano di pace proposto dalle Nazioni Unite, chiedendo subito nuovi colloqui. Secondo i media locali, Tripoli, il cui governo non è riconosciuto a livello internazionale come quello di Tobruk, è pronto a ritornare ai negoziati se le sue richieste riguardanti la partecipazione al governo di unità nazionale e l'elaborazione delle leggi saranno soddisfatte. Nei giorni scorsi Tripoli aveva scelto di non partecipare ai negoziati in Marocco mediati dall'inviato dell'ONU per la Libia, Bernardino León, in contrasto con il governo di Tobruk, che invece era presente. A sostenere il potere politico a Tripoli è Alba della Libia, una coalizione di milizie islamiche. Il nulla di fatto nei negoziati potrebbe ora portare ad una maggiore instabilità nel paese, mentre l'ISIS avanza nell'area di Sirte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un tema strettamente collegato a tutto questo e che abbiamo lasciato forse colpevolmente sotto traccia nelle ultime settimane, pressati dalla crisi greca. A ricordarcelo, ed è il tema dell'immigrazione, è una ricorrenza. È un mese che gli immigrati dei quali abbiamo visto le immagini, i profughi dei quali abbiamo visto le immagini, sono sugli scogli a Ventimiglia. Ce li siamo dimenticati lì, sugli scogli di Ponte San Ludovico, aggrappati come cozze all'ultimo baluardo di terra italiana prima della Francia. In mezzo c'è stata la Tunisia, la Grecia, altre emergenze. ce li siamo scordati. Ma loro sono ancora lì, seppure di meno. Dai 200 nei giorni dell'emergenza un mese fa sono diventati una cinquantina. Maurizio Marmo, direttore Caritas a Ventimiglia. Ci sono altri che stanno arrivando, quindi comunque, ad esempio, ultimamente stanno arrivando parecchie persone afghane, mentre fino ad ora erano soprattutto persone dall'Eritrea, dal Sudan. Alcuni di loro sono tornati qui dopo aver provato e riprovato a passare il confine. Fanno il Ramadan sotto tende di fortuna, con un sole che picchia a 40 gradi, ma al caldo sono abituati. In Libia alcuni di loro sopravvivevano nei container senza acqua. C'è ad esempio l'imam di Nizza che la sera va appunto in frontiera per la preghiera e porta anche da mangiare. Ora che non siamo più un'emergenza nazionale, io telefono e telefono e nessuno mi risponde, dice il giovane sindaco Enrico Ioculano. Poco più in là scendono i bagnanti con il materassino. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una questione europea, dunque, così come europea una vicenda che fa discutere la richiesta della Commissione all'Italia di mettere fine al divieto di utilizzo del latte in polvere per la produzione di formaggi, divieto previsto da una vecchia legge del 74. La conseguenza, secondo Coldiretti, potrebbe essere la scomparsa di 487 formaggi tradizionali. Oggi allevatori e produttori sono scesi in piazza a Montecitorio, mentre a Bruxelles si fa strada l'ipotesi di un'etichettatura obbligatoria che indichi sulla confezione se il formaggio proviene da latte in polvere o fresco. Gli allevatori però sono divisi. Sentiamo le voci raccolte in piazza da Alessandra Schepisi. Produciamo Asiago e quindi col discorso del latte in polvere non si può assolutamente. Un'etichetta obbligatoria che indichi se il formaggio è stato fatto con il latte in polvere o è stato fatto con questo il latte sarebbe in polvere, questo potrebbe tutelarvi? Esatto, questo potrebbe essere utile. È quello che noi chiediamo. E noi già siamo ai limiti di sopportazione come azienda. Poi dopo si passano altre cose, noi addirittura aiutiamo perché non siamo più competitivi. Se mettono un'etichetta con scritto formaggio fatto con latte in polvere, forse abbiamo un futuro, forse. Quindi dov'è? Di Amelia, Terni, io produco latte. Quante mucche ha? Io sono una quarantina di lattazione. Ma una volta che ci sta, è il più fesso va a comprare, è normale, no? Al McDonald's chi ci va? Ci dovrebbe andare nessuno perché le peggio cose stanno al McDonald's, è inutile se giriamo attorno. Non viene a prendere il latte perché nostro. Alcuni allevatori hanno detto no, l'etichetta ci potrebbe salvare. No. Io alla Befana non ci credevo quando ero ragazzino, figuriamoci adesso. Prima di andare a chiudere e sentire che cosa succede sulle strade, vi devo dare una notizia appena battuta dalle agenzie. Il senatore Antonio Azzollini, sul quale pende una richiesta di arresto e sul quale oggi si pronuncerà la giunta delle immunità del Senato, si è dimesso dalla presidenza della commissione bilancio di Palazzo Madama. La notizia non è ancora ufficiale, filtra da fonti parlamentari riferite dalle agenzie. Torniamo a parlare di quello che sta succedendo in Cina in queste ore, in realtà in queste settimane, dove le borse hanno perso il 30% la settimana scorsa e tra il 6 e il 7% questa mattina. Si parla di una vera e propria bolla, lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E come si diceva pochi istanti fa, si sarebbe dimesso dalla presidenza della Commissione Bilancio il senatore Azzollini, sul quale pende una richiesta di arresto. Oggi si esprimerà la giunta per le immunità. L'intervento al Parlamento europeo di Alexis Tsipras: e i soldi sono andati alle banche, non al popolo. I popolari attaccano, hai distrutto la fiducia nell'Europa. Crollano ancora le borse cinesi che perdono il 6%, 500 titoli sospesi dalle contrattazioni, mentre il rischio di esplosione di una bolla si fa sempre più evidente. La Tunisia vuole costruire un muro di 160 chilometri contro gli jihadisti. Intanto in Libia il Consiglio di Tripoli rifiuta l'accordo per un nuovo governo di pacificazione nazionale. E veniamo dunque a un fatto che avete sentito nei nostri titoli, che avete sentito riassunto dal punto di vista più strettamente di mercato da parte della nostra Deborah Rosciani nella prima parte della trasmissione, ed è quello che sta avvenendo in Cina appunto. Oggi un nuovo crollo delle borse di circa il 6% complessivamente, insomma parliamo di Shanghai, parliamo di Hong Kong e così via, 500 titoli sospesi dalle contrattazioni. Moria Longo del Sole 24 Ore aiuta i nostri ascoltatori e anche noi a capire che cosa sta succedendo. Allora, in Cina è stata costruita una gigantesca bolla speculativa per tanti motivi. Cerco di raccontarla brevemente. Come tutti sanno, l'economia cinese da tanti anni corre, cresce, l'economia cinese è uno dei miracoli dell'ultimo decennio. E un motivo per cui questa economia è cresciuta, uno dei tanti motivi, è perché le imprese si sono iperindebitate, cioè è un'economia cresciuta a leva, a debito. Pensate che il debito delle imprese era al 98% del PIL nel 2007, adesso al 155% del PIL, è raddoppiato. La Cina non ha debito pubblico come l'Italia, ha un debito privato, soprattutto delle imprese, enorme. Il governo cosa ha fatto? Siccome era preoccupato per questo indebitamento delle imprese, ha cercato ultimamente di favorire l'investimento in azioni, cioè in modo che le aziende possano reperire soldi non più soltanto attraverso il debito, ma anche attraverso la borsa, quindi attraverso il capitale di rischio. Quindi ha fatto tutta una serie di riforme per favorire l'ingresso dei capitali nazionali e internazionali nelle borse cinesi. Ha quindi favorito l'ingresso appunto di investitori internazionali, ma anche dei risparmiatori. Allora, cosa hanno fatto i risparmiatori cinesi? Hanno fatto una cosa che facevano gli americani tempo fa, cioè si sono indebitati per comprare azioni. Se uno vuole comprare azioni ma non ha i soldi, va da un broker, si fa dare i soldi, con questi soldi compra le azioni e le stesse azioni le mette in garanzia del finanziamento. Pensate che i crediti erogati ai cinesi retail, quindi alle persone fisiche, per comprare azioni sono arrivati all'equivalente di 334 miliardi di euro, che è il debito greco. Loro hanno un debito pari a quello greco per comprare azioni in borsa. A questo punto che cosa può succedere, Moria? E si è innescata una spirale che secondo te è difficile interrompere? Assolutamente, perché quando uno si indebita per comprare azioni e mette le stesse azioni in garanzia, appena il valore delle azioni scende, il valore delle garanzie del suo prestito vanno a diminuire. Quindi le banche o chi ti ha erogato il credito chiede che tu reintegri le garanzie, e quindi un risparmiatore cosa fa? Vende le azioni per rimborsare il credito. Questa cosa ovviamente diventa un effetto a cascata e può durare ancora per molto, perché secondo i calcoli di Citigroup fino ad ora soltanto un quarto di questi 334 miliardi sono stati rimborsati, quindi sono state vendute le azioni per rimborsare i crediti. Quindi questo ha creato un effetto a valanga dei risparmiatori cinesi che stanno vendendo in fretta e furia per rimborsare i debiti che hanno contratto per comprare le azioni. Sta creando un effetto a valanga degli investitori internazionali che nei mesi passati hanno comprato in maniera eccessiva e quindi stanno vendendo, e sta facendo crollare la borsa cinese. Il punto è capire se questo crollo della borsa cinese possa avere un impatto molto forte sull'economia cinese, che già sta rallentando. Se rallenta l'economia cinese, le imprese che sono iperindebitate soffrono, perché il debito non è più sostenibile se l'economia non cresce più come un tempo. E a questo punto si possono vedere anche scenari di contagio globale, perché la Grecia, non dimentichiamoci, la Cina non è la Grecia. La Cina è la prima economia al mondo, è il primo esportatore al mondo ed è anche il primo importatore di materie prime, per cui tant'è vero che adesso già i mercati emergenti, i paesi esportatori di materie prime, stanno crollando nelle loro borse, perché le materie prime crollano, perché si rischia che venga meno, comunque si ridimensioni il primo acquirente al mondo, per esempio di rame o di tantissime materie prime. E grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore anche per la chiarezza con la quale ci ha raccontato tutto questo. Un breve aggiornamento prima di prenderci una pausa, e che arriva ancora una volta dalla vicenda politica della quale stavamo parlando poco fa. Il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzolini, che a questo punto non lo è più, ribadisce la totale infondatezza dei fatti giudiziari che lo vedono coinvolto, così sostiene, e dice: la Commissione che ho l'onore di presiedere ha bisogno di decisioni che richiedono dedizione assoluta e tempo pieno, e quindi sostanzialmente conferma le dimissioni. Vi ricordo ancora una volta che oggi si voterà sulla richiesta di arresto. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, nella fattispecie quelli europei, e poi subito dopo parleremo di una vicenda della quale vi accennavamo nei titoli, ossia questo nuovo caso a Milano di cinque donne trovate a rubare in metropolitana, insomma, con decine di denunce a carico, ma con l'impossibilità di metterle in carcere, e ne parleremo col vice ministro alla giustizia tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tsipras infiamma il Parlamento europeo, i soldi sono andati alle banche, non al popolo, i popolari lo attaccano, ha distrutto la fiducia nell'Europa, raccoglie invece gli applausi degli euroscettici di Podemos. Crollano ancora le borse cinesi, che perdono il 6%, 500 titoli sospesi dalle contrattazioni, il rischio bolla è sempre più evidente. Si è dimesso dalla presidenza della Commissione Bilancio il senatore Azzollini, sul quale pende una richiesta d'arresto. Oggi si esprimerà la giunta per le immunità. Il governo ha preso di mira i sindacati e la nostra associazione come corpi intermedi da eliminare, lo dice il presidente di Confindustria Squinzi, ma aggiunge: abbiamo un colloquio continuo e cerchiamo di confrontare le nostre visioni. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è qualcosa che non funziona, evidentemente, se, come racconta il Corriere della Sera oggi in edicola, facendo seguito ad un'altra storia raccontata nei giorni scorsi, c'è un gruppo di borseggiatrici che gira per la metropolitana di Milano, che sono già state arrestate complessivamente, diciamo tra tutte quante, 78 volte, e poi alla fine succede che non si fanno nemmeno un giorno di carcere. Questo per una serie di motivi: perché le pene sono troppo basse, perché hanno in tutto, sono 5 hanno in tutto 25 figli, e questo rappresenta un problema. Che cosa non funziona esattamente? Lo chiediamo innanzitutto al vice ministro della giustizia, che è con noi, Enrico Costa di NCD. Vice ministro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. La domanda è chiara, le chiedo di rispondere. Ho letto l'articolo e ovviamente ho avuto quello che è stata la reazione che immagino abbiano avuto tutti i lettori. È evidente che nel nostro sistema è necessario individuare gli accorgimenti perché queste situazioni non si verifichino, e soprattutto perché laddove ci siano delle norme che hanno una giustificazione non si possa approfittare dell'esistenza di queste norme di tutela come viene fatto nella situazione descritta dal giornale. È un tema che sicuramente deve far riflettere, è un tema sul quale cercheremo di dare una risposta. Di dare una risposta, perché c'è l'articolo 275 del codice di procedura penale che dice: quando gli imputati siano donne incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni, non può essere disposta né mantenuta la custodia in carcere salvo esigenze di eccezionale rilevanza. La cosa interessante è che qua i giudici si sono divisi, perché abbiamo due casi distinti molto simili che riguardano sempre Milano. In un caso un giudice ha deciso di interpretare questa norma dandone un'interpretazione letterale e escludendo le esigenze di eccezionale rilevanza, un altro giudice ha detto invece che in carcere ci devono rimanere almeno fino all'udienza perché strumentalizzano la gravidanza. Quindi come spesso accade, vice ministro, c'è un problema di una non interpretazione univoca della legge che crea molta confusione anche nei cittadini. Certo, questo è evidente. Chiaramente la norma è una norma che non dovrebbe essere strumentalizzata, però io non voglio entrare in quelle che sono state chiaramente le pronunce, i singoli casi. Quello che è necessario è dare una risposta, perché in troppe circostanze il lavoro degli inquirenti, il lavoro degli investigatori, il lavoro delle forze dell'ordine viene frustrato e viene svilito da situazioni che lo fanno andare in fumo e soprattutto determinano il rientro attraverso le cosiddette porte girevoli in circolo di delinquenti che meriterebbero di stare in carcere. Delinquenti abituali. Uno dei problemi è il fatto che per determinati tipi di reati, come per esempio il borseggio, la pena minima è troppo bassa e quindi va a finire che di giorni di carcere non se ne fanno nemmeno uno. A questo proposito, voi avete in campo un provvedimento, sta per arrivare da quel che abbiamo appreso in Commissione Giustizia alla Camera? Sì, io ho pensato insieme al ministro Orlando che sia necessario un tagliando a quella che è la normativa sul furto in abitazione, soprattutto perché ormai i furti in abitazione hanno assunto dei numeri che sono assolutamente inaccettabili e necessitano di un intervento puntuale da parte del legislatore, chiaramente a fianco di tutte quelle che sono le attività di prevenzione. Ci sono troppi meccanismi di abbattimento delle pene che determinano il venir meno di un elemento essenziale del nostro sistema, che è quello della certezza e dell'efficacia della pena. È chiaro che di fronte a fatti particolarmente gravi, oggi il furto in abitazione non è più commesso come era forse un tempo dal topo di appartamento che si accerta che non ci sia nessuno in casa e colpisce. Qua c'è un'evoluzione dei furti in appartamento che è molto preoccupante perché molto spesso progredisce in rapina, molto spesso un'attività che è indipendente dalla presenza o meno in casa dei proprietari. Sì, e spesso si traduce in episodi di violenza, soprattutto quando episodi di violenza e quindi chiaramente in rapina. Sono bande organizzate, sono situazioni che determinano molto spesso dei fatti di sangue. Era assolutamente necessario mettere mano. Ci sono delle pene che sono pene forti, però dal punto di vista della pena minima consentono in sostanza l'abbattimento attraverso dei meccanismi processuali. Noi siamo intervenuti sulle pene minime dei furti in abitazione, siamo intervenuti sulle pene minime, nell'ambito del provvedimento sul processo penale, sulle pene minime della rapina e soprattutto sul meccanismo di bilanciamento delle circostanze. Sì. È una questione tecnica, sì, però è una questione che ha un forte impatto su quello che è l'abbattimento della pena. Dare più forza, da quel che ho capito, alle aggravanti rispetto alle attenuanti, in sostanza. Non consentire che le attenuanti vengano considerate prevalenti o equivalenti alle contestate aggravanti. Le faccio un esempio: il furto in abitazione con la violenza sulle cose è un furto aggravato. È chiaro che questa aggravante determina un aumento della pena e non vogliamo che questo aumento venga vanificato dalla presenza magari di un attenuante. Ci dà un'idea dei tempi? Approda oggi tutto questo alla Camera oppure no? Io penso che nel giro di questa settimana e della prossima il provvedimento sarà approvato in commissione alla Camera, dopodiché prima dell'estate sarà approvato dall'Aula. Quindi l'obiettivo è di averlo prima dell'estate approvato dall'Aula. Un'ultima domanda che le voglio fare, ritornando al caso che abbiamo trattato all'inizio: pensa che questo provvedimento possa avere un impatto anche su casi di questo genere, dove abbiamo visto una sorta, quella che un giudice ha definito come una strumentalizzazione della gravidanza? Ma io penso che i casi che sono stati descritti dal giornale meritino un'attenzione ed una riflessione. Questo intervento dimostra che il governo è attento a queste situazioni, è attento a questo evolversi di fatti criminali e soprattutto punta a fare in modo che l'obiettivo della certezza ed efficacia della pena venga raggiunto e soprattutto che gli sforzi delle forze dell'ordine non vengano vanificati. Quindi, quello che ci sta dicendo è che al momento non ha un impatto specifico su casi di questo genere, però lo potrebbe avere nei termini che si diceva, cioè una riduzione del peso delle attenuanti. Devo dire questo sicuramente, perché chiaramente per quello che riguarda le pene le norme sono le stesse. La ringrazio, grazie al Vice Ministro della Giustizia Costa per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Vi do un'ultima notizia prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, che è stata battuta adesso dalle agenzie. A Roma è in arrivo il cosiddetto zoning, cioè l'interdizione alla prostituzione in alcune aree della città, visto che parliamo anche di sicurezza pubblica. Il nuovo regolamento di polizia urbana si prevede l'interdire la prostituzione nelle zone di grande viabilità e tenere il fenomeno lontano da insediamenti abitativi. La notizia l'ha data il vice capo di gabinetto del sindaco Rossella Matarazzo. Noi adesso andiamo a sentire, come si diceva, quello che succede sulle strade. Ci ritroviamo tra un attimo con America 24.